Luoghi d'arte. Un saluto da Marco Carminati, sono nella bella campagna di Parma, sono a Fontanellato e sono in un posto davvero eccezionale. Mi trovo davanti al labirinto che Franco Maria Ricci, il grande editore, ha fatto costruire in questi anni nei terreni di sua proprietà. È un sogno che Franco Maria Ricci ha coltivato per anni, naturalmente incontrando anche Borges, che gli aveva parlato del fascino del labirinto, ed è un sogno che lui è riuscito a realizzare attraverso la complicità di architetti che sono riusciti a disegnare questo luogo incantato. Questo labirinto è però un labirinto molto speciale, perché naturalmente far crescere le piante tradizionali di un labirinto, cioè un bosso, avrebbe significato aspettare molti anni. Franco Maria Ricci ha deciso di usare invece il bambù, che è cresciuto velocissimo, e quindi da maggio il labirinto è aperto al pubblico. Che cosa si trova qui, oltre al piacere di perdersi in questo meraviglioso labirinto a forma di città stellata, tra l'altro? Beh, c'è la possibilità di vedere naturalmente la collezione d'arte che Franco Maria Ricci dal 1960 ai nostri giorni ha arricchito. Sono soprattutto dipinti, sculture, oggetti da Wunderkammer e naturalmente una quantità straordinaria di opere grafiche, perché la sua attività di collezionista e di editore sono andate di pari passo. Non a caso nel museo che è all'inizio del labirinto si incontrano le opere d'arte che lui ha collezionato insieme ai bellissimi libri che lui ha editato. E poi naturalmente ci si può divertire. Il concetto di questo labirinto non è un concetto di paura, ma di divertimento. È un labirinto che ci fa divertire, perché a un certo punto comunque si esce, e uscendo da questo labirinto si può incontrare il meglio che questa terra produce, cioè la cultura, attraverso un bellissimo bookshop dove si possono comprare e sfogliare e guardare molti libri, ma anche la cultura del luogo e della cucina del luogo. Un ristorante piuttosto importante e un bar, ma altrettanto attraente, offrono a tutte le tasche, a tutte le possibilità, la giusta ricompensa di una pausa mangiando i prodotti locali, i prosciutti, i salumi e il formaggio che questa terra di Parma ha prodotto e per il quale è celebre in tutto il mondo.